Capitolo 42. Anversa, 30 maggio 1538. Il tuo racconto, l'incredibile storia di Gert su e giù dal pozzo, mi ha ammozzato il fiato. Non riuscivo neanche a dormire dopo che ci eravamo congedati a notte alta. Ecco perché amo coloro che sanno raccontare una storia, con le parole, il pennello o la penna. Hai affrescato Münster con la maestria dei Bruegel, e ora quella storia l'ho vissuta anch'io. E tu due volte. Due volte, Lot. Una per l'esperienza e l'altra per liberartene. Come vuole il nome che ti abbiamo dato, guarda avanti, dritto, di fronte a te. Oltre i vascelli che ogni giorno attendono di salpare. Lungo l'estuario che via via si allarga per miglia e poi sfocia nel mare aperto. Il mare, Lot. Oltre quel mare non passa giorno che non porti notizie di terre e genti nuove. E nuovi crimini anche. Oltre quel mare l'Apocalisse sorge ogni mattina, insieme al sole. Non voltarti indietro. Non rimanere prigioniero della tua storia. Prendi il mare, recidi le cime che ti inchiodano a terra. Tieni la mente a prua e salpa. Salpiamo. Un mondo finisce e un altro comincia. È questa l'Apocalisse. E noi ci siamo in mezzo. Aiutami ad armare il battello che sfiderà la tempesta. Eloy si alza e muove qualche passo tra il chiosco delle salsicce e il grande edificio grigio, poi torna a sedersi sul gradino. Che cosa hai in mente? Guarda la faccia spoglia, il portale di legno massiccio. Colpire a morte la bestia e fare un sacco di soldi. Lungo la banchina di assi, inchiodate ai pali che affondano nell'acqua stagnante, in una propaggine di questo infinito labirinto d'acqua putrida e legno, seguo la schiena di Eloy, che spinge il passo. È un piccolo mercantile, panciuto e goffo, stiva capiente, due alberi molto alti, una piccola cabina sotto il castello di poppa. La polena è una fenice con le ali aperte e battezza la nave, Phoenix. Lodewijk Prüsting! L'uomo che saluta si è sporto dal parapetto del ponte, barba e capelli grigi, faccia butterata, occhi piccoli e guizzanti. Polnitz, il mago dei numeri! Eloy agguanta il corrimano della passerella e con un salto è già a bordo. Io dietro. Gli spara il suo sorriso. Gotz, questo è Lot, che viene da un pozzo. Un maestro nell'arte del venir fuori dai pozzi. Venite, venite dentro. Devo abbassarmi per entrare nella cabina. Un tavolo agganciato alla parete di fronte, due sedie sui lati, una panca inchiodata al pavimento. L'unica luce entra dalla porta da cui siamo venuti. Se si esclude una candela accesa sul tavolo. Eloy mi lascia la sedia e si mette sulla panca di fianco. Polnitz, di fronte a me. Non ha l'aria del marinaio. Bene, signori, rivolto a Eloy. Suppongo che il nostro amico abbia bisogno di molte spiegazioni. Sicuro, ma se l'ho portato qua è perché è la persona che stavamo cercando. Faccio una mezza smorfia e aspetto. Polnitz si aggiusta sulla sedia. Non indugiamo allora. Tu sai chi sono i Fugger di Augusta? Lo sguardo resta su di me. Dei banchieri. I banchieri. Gli occhi scrutano attenti. Sa già quello che vuole dirmi. Permettimi di raccontarti una storia. Eloy si accende un sigaro e sprofonda zitto e sornione tra le volute. 10 anni fa, il più potente banchiere di Anversa era un certo Ambrosius Hochstetter, un vecchiaccio scavato nella pietra che da decenni dominava la piazza. Ogni fiorino speso dal re d'Ungheria Ferdinando proveniva dalla sua borsa, al cambio di tutto il mercurio boemo e molto altro ancora. Per raggiungere quella posizione, il vecchio Ambrosius, molti anni prima, aveva visto lungo. Oltre all'importanza dell'amicizia con gli Asburgo, aveva capito che se i principi potevano concedergli diritti d'usufrutto di miniere e territori, la moneta girava però per altre mani, più sporche e più agili. Quelle dei mercanti di Anversa. Così aveva cominciato a raccogliere i loro risparmi, il frutto dei commerci, delle manifatture e di tutti i piccoli e grandi scambi di cui questo porto è teatro. A chi depositava anche piccole somme presso di lui, concedeva un interesse consistente. Prestava denaro ai mercanti emergenti, finanziava le loro attività, aveva un tale potere sulle fortune di chi intraprendeva traffici ad Anversa che nessuno avrebbe mai potuto nemmeno immaginare di scalzarlo da quel trono. Gotz Volpolnitz mi tiene lo sguardo in faccia, a sincerarsi che non perda una parola della storia. Nel 1528 Höckstetter era ancora il re di Anversa, ma aveva dei problemi. Era vecchio, era quasi cieco e fuori dalla città molti aspiravano a soppiantarlo. Nel 1528 Lazarus Tücher, un mercante di origine norimberghese, gestiva un discreto traffico di scambi tra Lione e Anversa. Tücher era benestante e sveglio, ma non godeva dei favori di Höckstetter. Sapeva dunque che non avrebbe potuto crescere più di tanto. Dalla primavera di quell'anno, proprio da Lione, cominciarono a giungere voci circa la reale disponibilità monetaria di Höckstetter. Il vecchio era esposto ovunque per somme considerevoli. Prestava denaro ai mercanti, foraggiava gli Asburgo e la guerra per il monopolio del mercurio era molto costosa. I gruzzoli dei piccoli mercanti e delle corporazioni artigiane di Anversa erano irrimediabilmente lontani. Sui bastimenti in rotta per il nuovo mondo, alla corte di Ferdinando e nelle miniere boeme. Sembra incredibile, ma in poco tempo una folla reclamava la restituzione dei propri depositi. Götz prende fiato, mi lascia immaginare la scena, poi continua. La bancarotta fu inevitabile. Höckstetter non aveva nei suoi forzieri abbastanza denaro per soddisfare le richieste. Cercò disperatamente di salvarsi, chiedendo aiuto anche ai suoi più feroci concorrenti, ma il suo destino ormai era segnato. Nel 1529 il giovane, aggressivo Anton Fugger, nipote del patriarca Jacob il Ricco, faceva il suo ingresso trionfale in città, garantendo la massa dei creditori e rilevando d'un colpo le obbligazioni, i magazzini e l'intera attività di Höckstetter. Accusato d'aver ingannato i risparmiatori, il vecchio terminò i suoi giorni in galera. In realtà, il giovane Fugger coronava un'operazione a cui aveva dato inizio più di un anno prima, quando aveva pilotato il discredito su Höckstetter grazie alla destrezza del suo più ambizioso agente, Lazarus Tücher. Anversa incoronò un nuovo re. La domanda mi esce da sola. Che fine ha fatto Tücher? Parole soppesate. Non è importante, non è più in città. Quello che ti insegna questa storia è la legge fondamentale del credito. Chi vuole raccogliere il risparmio da molti deve godere della fiducia di molti. Ancora una pausa. Eloy è un ascoltatore attento al mio fianco. Non muove un muscolo. Götz estrae dalla giubba un foglio di carta non troppo grande e lo appoggia sul tavolo. Non ci crederai, ma la maggior parte degli affari che si svolgono qui avvengono tramite lettere di credito. Pezzi di carta, come questo. Rigiro il foglio tra le mani. Una specie di lettera in calligrafia elegante con due sigilli e una firma in fondo. Anton Fugger, o chi per lui, garantisce con la propria sigla l'entità del tuo deposito presso i suoi forzieri. Quando tu hai in mano un pezzo di carta come questo, è esattamente come se avessi con te il tuo denaro, che però, di fatto, è al sicuro nella cassaforte di Fugger. Puoi imbarcarti, puoi viaggiare, evitando il rischio e l'ingombro di portartelo dietro. Non appena vorrai indietro le tue monete d'oro e d'argento, potrai recarti presso una qualunque delle filiali di Fugger sparse in giro per l'Europa e ritirarle, mostrando la tua lettera di credito. Ma il punto è che, proprio in base alla legge del credito, potresti non avere mai bisogno di farlo. Götz si ferma davanti alle mie sopracciglia aggrottate, congiunge le mani, cerca le parole giuste e prosegue. Io sono un mercante di spezie. Tu vuoi comprare la mia merce e hai con te una lettera di cambio che garantisce il tuo credito presso i Fugger per 2000 fiorini. Puoi pagarmi direttamente con quello, indica la lettera che ho in mano. È sufficiente che lo giri e scrivi sul verso che trasferisci a me il tuo credito. Da quel momento sono io che posso ritirare 2000 fiorini presso le casse di Fugger. Perché è la sua sigla, non la tua, a garantirmelo, capisci? Non sono costretto a fidarmi di te. Non sei tu che prometti di pagarmi. È sufficiente che io dia credito alla parola di Anton Fugger. Giro la carta e vedo una sfilza di 5 o 6 annotazioni tutte seguite da firme diverse. Per 6 volte la lettera che ho in mano ha sostituito il metallo delle monete, senza che queste lasciassero la cassaforte della banca. Fino a qui tutto chiaro? C'è una cosa che non capisco. Qual è l'interesse del banchiere in tutto questo? Götz annuisce. Mentre la lettera di credito passa di mano in mano, il denaro è comunque a sua disposizione. Ricordati del vecchio Höckstetter. Raccoglieva il risparmio e lo reinvestiva in affari redditizi. Questo fa il banchiere. I tuoi 2000 fiorini, insieme a quelli di tanti altri creditori, vanno a finanziare l'allestimento di flotte mercantili, il reclutamento di esercito, l'estrazione mineraria, il mantenimento di corti principesche e quant'altro, per poi rientrare raddoppiati nelle casse di Fugger. Fugger ha il denaro in cassa, Fugger lo presta a principi e mercanti, Fugger lo reincassa con gli interessi. Mi concede il tempo di realizzare. Il denaro genera denaro. Il silenzio mi avverte che siamo arrivati a un punto saliente dell'esposizione. Eloy non fuma più, le braccia conserte, l'aria meditabonda. Goz continua a rivolgersi a me. Adesso puoi capire perché Fugger è disposto ad aumentare il tuo gruzzolo se glielo lasci in deposito per molto tempo? Vale a dire? Che anche lui ti paga un interesse, dato che a tutti gli effetti, depositando una certa somma nel suo forziere, tu gli hai messo a disposizione del denaro, consentendogli così di aumentare il volume dei suoi investimenti. Cerco di raccapezzarmi. Stai dicendo che se deposito i miei 2000 fiorini presso la banca e li lascio lì, un anno dopo saranno diventati 2100? Goz si concede il primo sorriso. Esattamente. In questo modo i creditori non saranno tentati di ritirare troppo frequentemente i loro depositi e non lasceranno esposto Fugger all'eventualità di un'emorragia di moneta dai suoi forzieri. Indica di nuovo la lettera di credito. Da questo punto di vista, quel pezzo di carta facilita l'ingrossarsi delle somme depositate, visto che finché qualcuno non va a riscuoterle, quelle restano a lievitare nelle mani di Fugger. Ho la testa un po' confusa. Il meccanismo sembra semplice nelle parole di Goz, ma sono afflitto dalla sensazione che qualcosa mi stia inevitabilmente sfuggendo. Vediamo se ho capito. La lettera di credito vale 2000 fiorini. Posso decidere di scambiarla subito, come fosse denaro, oppure conservarla e aspettare che il deposito cresca con gli interessi. Goz segue il ragionamento con ampi cenni d'assenso della testa. Beh, penso che la scelta dipenderebbe dal bisogno che ho di usare quel denaro nell'immediato. Benissimo. È un meccanismo diabolico. Eloy ridacchia e finalmente parla. Lasciamo il diavolo fuori da questo affare, è già abbastanza complicato. Goz cattura nuovamente la mia attenzione. L'intero meccanismo si basa soltanto sulla fiducia che tutti quanti attribuiscono alla firma di Anton Fugger. È la sua parola che regge gli scambi. Sì, questo è abbastanza chiaro. Bene. Per la prima volta cerca con lo sguardo l'assenso di Eloy. Un piccolo cenno del capo dell'amico e la faccia butterata di Goz è di nuovo per me. Veniamo al punto, allora. Cosa penseresti se ti dicessi che la lettera di credito che hai in mano è falsa? Rigiro il foglio giallognolo. Osservo bene le firme, i sigilli. Direi che non è possibile. Goz tradisce la soddisfazione. Dalla piccola borsa, che ha al fianco, tira fuori una scatolina nera, anonima, un foglio delle stesse dimensioni di quello che ho in mano, un calamaio e una lunga penna d'oca. Scrive lentamente, attento a non macchiare la carta, soltanto il graffiare della penna nel silenzio dei suoi due spettatori. Con la fiamma della candela scioglie due gocce da un bastoncino di cera rossa, lasciandole cadere sul foglio. Quindi apre la scatolina e ne estrae due piccoli timbri di piombo che calca sulla cera calda. Gira il foglio e me lo allunga sul tavolo. La scrittura è identica, stesse parole, stesso tratto. I timbri sono quelli. Anche la firma di Anton Fugger campeggia nella stessa posizione, le stesse lievi sbavature d'inchiostro sulle consonanti, dove la mano ha calcato di più. Pianto lo sguardo in faccia a Goz, cercando di immaginare che diavolo è il tipo che ho di fronte. Lui non si scompone affatto. Sì, sono entrambe false. Come fai ad avere quei timbri? Si ferma. Ogni cosa a suo tempo, amico mio. Adesso guarda bene quelle due lettere. Lo sguardo si sposta da una all'altra un paio di volte. Sono identiche. Non esattamente. Guardo con più attenzione. Su questa ci sono dei segni sul margine destro, in basso, ma sono quasi invisibili. Infatti, è un codice segreto. Il codice con il quale gli agenti di cambio che lavorano per Fugger nelle filiali sparse per l'Europa comunicano tra loro. Il primo segno indica la filiale che ha emesso la lettera di credito, vale a dire quella in cui è stato versato il denaro. Lo scarabocchio che vedi, ad esempio, dice che i soldi sono depositati ad Augusta. Il secondo è la firma personale, anch'essa cifrata, dell'agente che ha redatto la lettera, in questo caso Anton Fugger in persona. Il terzo segno indica l'anno di emissione. Come fai a conoscere il codice? Götz finge di non aver sentito la domanda. Se tu ti presentassi con una lettera priva di codice a una qualunque delle agenzie Fugger, verresti arrestato immediatamente. Per quanto tu sappia riprodurre la firma di un agente dei Fugger, se non conosci il codice, non puoi falsificare una lettera di credito. E tu come fai a conoscerlo? Silenzio. Ci fissiamo. Eloy lo incoraggia. Diglielo, Götz. Sospira. Ho lavorato 7 anni come agente dei Fugger a Colonia. I pensieri si accavallano. Confusione. Mi rivolgo a Eloy. È questo l'affare? Falsificare lettere di credito e attingere a man bassa dai forzieri di Fugger? Eloy ride. Più o meno, ma non è così facile come sembra. Götz riprende la parola. Fugger e i suoi agenti conoscono personalmente i loro più grossi creditori. Sono gli stessi con cui fanno gli affari più proficui. Inoltre, hanno un'idea abbastanza precisa del giro di scambi che passa dai porti tra il Baltico e il Portogallo. È il loro regno, non dimenticarlo. Anversa è esattamente nel mezzo del traffico commerciale, la loro piazza forte. Se domani uno sconosciuto qualunque, con le pezze al culo, entrasse nella banca locale con una lettera che gli accredita 50.000 fiorini, difficilmente ne uscirebbe indisturbato con quella cifra. Bisogna lavorare di fino, passo passo. Götz è bravo. Se vendesse fumo, la farebbe più semplice. Adesso però devo sapere di cosa stiamo veramente parlando. Quanto? Senza indugiare. 300.000 fiorini in 5 anni. Deglutisco la montagna di soldi che non riesco a immaginare. Il colpo ai banchieri più ricchi di tutta la cristianità. In che modo? Annuisce. Sono ancora qui, è già buon segno. Adesso te lo spiego. Innanzitutto, serve mettere in piedi un'attività di copertura. Cosa sai di come funziona il traffico delle merci? Ho derubato un mercante sulla via di Augusta e ucciso 3 pirati vicino a Rotterdam. Probabilmente redditizio, ma sembra che sia una cosa rischiosa. Götz gongola. Ottimo. Infatti, un'altra delle attività dei banchieri è quella di assicurare i carichi, perché con i tempi che corrono, i mercanti fanno fatica ad assumersi tutti i rischi da soli. Vai avanti. Immagina di essere un mercante che ha l'opportunità di aprire un importante scambio di merci con l'Inghilterra. Acquisti zucchero di canna raffinato dalle manifatture di Anversa e Ostenda e lo rivendi sulle piazze di Londra e Ipswich. È un commercio molto redditizio ed è tua intenzione svilupparlo al meglio. Hai noleggiato 2 imbarcazioni, ma il proprietario ti ha chiesto di assumerti tutti i rischi del trasporto, navi incluse. Ci penso un attimo e capisco qual è la risposta. Vado nella sede Fugger di Anversa a raccontare questa storia, per assicurare il carico e le navi. Gli occhi piccoli e neri di Götz non si muovono. Te la senti? Cosa ne sarà del carico delle navi? Eloy precede la risposta. Il primo carico di zucchero arriverà felicemente a Londra. Al secondo giro il carico destinato a Ipswich e le 2 navi che lo trasportano saranno vittime di un'imboscata di pirati zelandesi. E Götz a continuare. Quindi avrai diritto a riscuotere i 15.000 fiorini dell'assicurazione. Ci penso con calma. Fin qui tutto chiaro. E dopo? Invece di prelevare il denaro, te lo fai corrispondere in lettere di credito, confermando la tua intenzione di proseguire nell'attività e di continuare a essere cliente dell'agenzia. E infatti, chiederai all'agente dei Fugger di vincolare le tue lettere a 3 anni, in modo che chi le riscuota allo scadere del vincolo possa farlo ricevendo un cospicuo interesse, ma non prima. 3 anni? Per prendere tempo. Quanto più tardi le nostre lettere verranno riscosse, tanto meglio sarà per noi, perché in quei 3 anni svolgerai i tuoi affari con le lettere di credito che attestano il tuo gruzzolo nei forzieri dei Fugger, ma intanto comincerai anche a mettere in circolazione quelle false, che ti fornirò io. Con tutte le lettere, vere e false, compreremo merci su molte piazze diverse e poi le rivenderemo per moneta sonante. Una parte verrà nuovamente depositata in banca. Questo servirà a tenere vivo il rapporto con l'agenzia e ad attestare che l'attività commerciale prospera moderatamente. Tutto il resto sarà il meritatissimo premio alla nostra scaltrezza. Come fai a essere sicuro che non ci scopriranno subito? Questo è il mio mestiere. È soltanto una questione di equilibrio tra i pagamenti fatti con le lettere a cui corrisponde denaro realmente depositato in cassa e pagamenti fatti con le lettere false. Faremo circolare i falsi per la maggior parte sulle piazze periferiche. In questo modo guadagneremo altro tempo e più difficili saranno le verifiche da parte dei Fugger. Quanto durerà il gioco se non ci fanno fuori prima? Secondo i miei calcoli, se stiamo attenti a diffondere le lettere false su piazze diverse, per scoprirci non impiegheranno meno di 5 anni. E del resto, quello è il tempo che ci serve per assicurarci la vecchiaia. 100.000 fiorini a testa. Dico bene, signori? Scende un silenzio assoluto. Anche lo sciabordio della corrente sulla pancia della nave sembra cessare. Guardo Eloy. Il tuo ruolo? Gli occhi dell'amico brillano, ma è Goetz a rispondere. Sarà il tuo socio nell'impresa. Un colpo di tosse. Un'ultima cosa. Non è il caso di trascurare i dettagli. Dovrai abituarti a usare un nome falso. Mentre Eloy scoppia a ridere e rispondo, nessun problema. Ascolto il rimbombo dei nostri passi mentre ci allontaniamo lungo il pontile. Götz von Pöllnitz, il mago dei numeri, ci ha congedati, dandoci appuntamento per dopodomani. Camminiamo immersi negli stessi pensieri. Forse Eloy si aspetta la mia obiezione. C'è qualcosa che non mi torna. Annuisce. So cosa stai pensando. Perché ha bisogno di noi, perché non fa tutto da solo o non si rivolge a gente già in attività commerciale. Indovinato. Sa che è inutile giocare ai segreti ormai. D'ora in poi saremo soci in affari. Per lo stesso motivo per cui non può mostrare la sua faccia ad Anversa. Pöllnitz è un uomo di comodo, quello che hai appena conosciuto. È un uomo che risulta morto da 3 anni. Chi diavolo è allora? Sorride. Quello a cui i Fugger devono il loro dominio su Anversa. Il loro miglior agente, Lazarus Tucker. Sgrano gli occhi. Eloy ridacchia e mette l'indice davanti alla bocca. Shh! Dopo aver fatto le scarpe al vecchio Höchstetter e aver spianato la strada all'ascesa di Anton Fugger in città, i suoi meriti gli hanno giovato il posto di primo agente alla filiale di Colonia. Quando però nel 35 Fugger ha deciso di armare una spedizione per andare finalmente a prendersi l'oro dalle miniere del Nuovo Mondo, la gestione di un'operazione così importante è stata affidata al solerte Lazarus. Se non che una tempesta al largo delle coste portoghesi ha inabissato l'intera flotta appena salpata. Questo è quello che ogni marinaio giù, al porto, può raccontarti. Il più grande buco nell'acqua da quando Anton regge l'attività della famiglia. Quello che non si sa è che una nave si è salvata, l'ammiraglia, e con essa tutti i soldi che avrebbero dovuto finanziare gli scavi minerari nel Perù. E Tucker era su quella nave. Il finale è immaginabile, ma Eloy non lascerebbe mai una storia a metà. Ha fatto rotta sull'Irlanda e da lì è passato in Inghilterra, dove è rimasto imboscato per 3 anni, facendo affari con gli amici di Enrico VIII. E adesso ha deciso di fare il colpaccio alle casse dei suoi ex padroni. Precisamente. Ci incamminiamo per lo stradello stretto che costeggia questo tratto dell'estuario. I campanili di Anversa spuntano nebulosi all'orizzonte. I gabbiani ispezionano l'acqua dall'alto. Una cicogna ci osserva immobile dal suo nido, sul pennone di un relitto in secca. Eloy guarda basso. Pensa a quello che vuole dirmi. Si ferma. Non è soltanto una truffa magistrale. Qualche passo più avanti. Aspetto che vuoti il sacco. Non si tratta soltanto di soldi. E di cosa allora? Il credito. Come pensi che reagirebbero i commercianti se sapessero che in tutti i mercati d'Europa circolano false lettere di credito di Fugger? Penso che non accetterebbero più nessun pezzo di carta con sopra la firma di Anton Fugger. Proprio così. Cos'è un banchiere senza credito? È come un marinaio senza nave. Se la gente non accetta più la sua firma in garanzia perché pensa che potrebbe essere falsa, è finito. È un uomo morto. Ricordi la storia del vecchio Höchstetter? L'hanno fregato così, screditandolo. La gente comincia a prosciugare i suoi depositi presso la banca. La sfiducia è un contagio che si trasmette in fretta. Chi vorrà più fare affari con uno che perde clienti invece di acquistarli? Stai dicendo che Tucker vorrebbe farsi anche Fugger di Augusta? Fregare quelli che fregano? Scuote la testa. A lui interessa il denaro. E anche a me. Ma se riusciamo a minare davvero il credito dei Fugger, potrebbero andare in rovina in pochi anni. Il cuore batte forte in fondo allo stomaco. Le viscere si allentano. Ferdinando, Carlo V, il Papa, i principi tedeschi. Tutti legati alla borsa di Anton il Furbo. Lo mormoro piano come rivelassi una visione. E insieme a loro le corti di mezza Europa. Anche Loi abbassa la voce, per quanto non ci siamo che noi, a perdita d'occhio. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi.